di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Vediamo se riesce a stringere la curva e a prendere, a pizzicare il punto di corda e poi a riaccelerare senza che arrivi la risposta di Marquez, che probabilmente pensa di farlo all'esterno un'altra volta. Duello con il cambio di direzione, che incrocio pericolosissimo in cui due si trovano. Cosa stanno facendo? Caduta di Marquez. Ma cos'è successo? Gli ha dato un calcetto? Mi ha guardato e quando mi ha visto là vicino mi ha dato un calcio. In il calcio questo è rosa. Non è assolutamente vero che io gli ho dato un calcio. Ecco il racconto del momento chiave del motomondiale a Sepang. Con noi c'è Claudio Costa, 74 anni, il guru del motomondiale, l'inventore della clinica mobile, croce delizia di ogni campione. Adesso ha scritto il libro Magic Marquez, è un inno alla moto, ai suoi campioni, al giovanissimo supercampione che ha cambiato il modo di correre dei ciclisti. Ecco, quando ho visto quella scena, dottor Costa, cosa ha pensato? Beh, ho pensato che dovevo con la logica trovare le cause, mi sono domandato come mai è successa una cosa del genere. Per cui sono andato alla vigilia di questa corsa, una vigilia bella perché Valentino si presentava dopo anni di tenebre, dove tutti lo ritenevano finito e praticamente molti pensavano che si sarebbe ritirato mestamente dal motociclismo. Invece lui, con un'armonia della mente incredibile, con dei sacrifici che l'hanno portato a cambiare il modo di guida, con una fantasia che ha inventato una giovinezza che aveva più vita e bellezza di quella che aveva quando aveva vinto i primi titoli mondiali. È questo pensavo. Io pensavo che praticamente era il candidato per vincere questo campionato del mondo. E gli si è rotto qualcosa nella testa. Ma probabilmente si è creato un dubbio, cioè il sogno, che i sogni sono sempre belli, ma delle volte sono molto vicini a terra, vacillano. Probabilmente ha vacillato un po' e ha visto probabilmente in Marquez quello che poteva far vacillare questo sogno, e quindi ha vissuto la gara di Phillip Island come un qualcosa dove Marquez aveva agito a favore di Lorenzo e l'aveva ostacolato. E quindi gli è rimasta questa cosa. Questa, non sto a dire, questa è una cosa che possiamo dimostrare, cioè sicuramente Valentino l'ha vissuta così e l'ha espressa vissuta così. E quindi ecco, lo scorso anno qui da noi lei alla domanda è più forte Marquez o Rossi aveva fatto una previsione esatta. Valentino sta riscoprendo, e questa è la sua grande, diciamo, sorpresa, la sua grandezza. E nel momento che scopre la sua grandezza, che la sta scoprendo per se stesso e la sta donando a tutti quelli che sono i suoi appassionati, ma anche a tutti quelli che sono appassionati del motociclismo, si sta accorgendo che si sta emozionando. Ha ritrovato l'emozione. E l'emozione può dare magie. Certo. Valentino è stato magico per tanto tempo, adesso ritrovando. Che io gli porto Magic Marquez, lui dirà, ma anch'io sono quest'altro anno lui dirà anche io sono Magic, ecco, quindi, la mia risposta. Ecco, quest'anno Vale è stato realmente Magic, solo che lo scorso anno lei la metteva in poesia, l'abbiamo sentito, adesso mi sembra che siamo alla guerra. Ma direi che dall'altro punto di vista il ragazzino Marquez, sentendosi dire parole un pochettino così forti, chiamiamole forti, e diciamo sentendosi dire che è l'autore di una congiura, sicuramente l'ha portato nella notte andare nella sua cameretta a rotolare tutti i poster di Valentino, li ha buttati via, insomma, li aveva tutti, prendere tutti i modellini che aveva delle sue moto, ecco. E precettosamente li ha messi in un cassetto, e poi il giorno dopo, quando se l'è trovato vicino, che lui normalmente quando si trova nella lotta si accende, che va in un luogo altro che ma era prevedibile questo scontro, quello da quel punto di vista ha cercato di attaccare il suo mito per cercare di dire, come avviene in tutte le mitologie, che c'è un figlio che vuole usurpare quello che è il trono. Uccidere del padre. Il padre, però in questo caso il trono del padre non era ancora cioè, pronto. Il regno del padre non era ancora finito. Non era finito, e quindi Valentino, vedendo questo sogno di rimanere sul trono e che si allontanava in quel puntino celeste che era la moto di Lorenzo, ha visto in Marquez un ostacolo. Allora sentite, quelli che mi ascoltano, se voi avete un ostacolo che vi si frappone per strada verso, cercate di contro il suo segno, o lo saltate o la girate, però nel sistema lo trovate, però potete prenderlo anche e portarlo fuori. Qui voglio dire una cosa, nessuno intenzione di farlo cadere, e il gesto della gamba è un gesto involontario di una moto che gli sta franando addosso. Ah, ecco, ecco, io la penso così, se mi ha chiesto questo. Sì, ma dottor Costa, che cosa ha in più Valentino che forse Marquez non avrà mai o non ha ancora? Ha la giovinezza di uno che ha 36 anni. La nuova giovinezza. La nuova giovinezza, la fonte della sua energia e della sua armonia. Anzi, direi che quell'armonia della mente che ha trovato Valentino in questi ultimi anni, in particolare quest'ultimo, io credo che se lui la torna a ritrovare per Valencia, se torna a ricostruire quella fantasia che gli dà questa giovinezza viva, che lo rende leggenda, beh, la trasmette al mondo, e quindi è l'antidoto ai veleni di questo momento di caccia alle streghe. Ma lei ci ha mai creduto alla loro amicizia? No, però le dico che se fa questo Valentino e trasmette questa sua armonia a questo mondo pieno di veleni, beh, a me non interessa chi vincerà la gara o il campionato del mondo. Per me Valentino sarà il vincitore. Lei resta il poeta, dottor Costa. Adesso nel moto mondiale comandano però gli spagnoli della Dorna. Lei è stata la prima vittima della Dorna, Valentino è la seconda? No, direi, io ero un po' vecchio e poi un maestro deve lasciare a un discepolo giovane, perché se lascia che diventi vecchio anche lui non è bello. Ho avuto grandissima stima da parte dell'IRTA e la Dorna mi ha sempre apprezzato per avere trasformato ferite. Valentino vittima. Non credo che sia vittima, perché come fa la Dorna a non voler bene a Valentino, che è, diciamo, lo spirito di questo mondiale. Ecco, ma tutti parlano dello scontro tra Valentino e Marquez, però il vero vincitore dello scontro è Lorenzo, mi sembra inevitabile, è così? Beh, senta, Lorenzo è un pilota che è grandissimo nella sua perfezione, ma se si cambiano un po', le carte in tavola, non bisogna disturbarlo, cioè mettiamo insomma che piova oppure c'è un qualcosa eccetera, ecco che questo diventa il suo limite. Quindi a Valencia se piove direi che tutto è possibile, tutto è possibile. Lei con Lorenzo ha fatto un miracolo, lo ha fatto correre dopo una tripla frattura della clavicola. Pazzo anche lui? Beh, direi che nel mondo del motociclismo i pazzi sono tanti. Lei per primo. Lei ha detto, lei si è pentito qualche volta di aver dato semaforo verde a pilota in condizioni del genere? Mai, perché tanto non ero io che decidevo, perché se decidevo io, se il pilota mi diceva che voleva correre, lo facevo correre anche in condizioni disperate. Per fortuna che la decisione spettava ai medici dei circuiti in cui si svolgeva il mondiale. Senta, ma la sua clinica mobile, sono parole sue, è un mondo che sta prima della ragione, dove la follia e la vera saggezza, cioè? Se tu aiuti un pilota ferito a correre, se tu un malato invece di mettergli le coperte addosso e carezzarlo, lo accarezzi ma togli le coperte e lo mandi a giocare a quel gioco che l'aveva malato ferito, beh, credo che di ragione ce ne sia poca. Ho scritto una cosa bellissima, ho detto in generale nelle corse, quello che accade nelle corse di moto non ha niente a che fare con la razionalità. Niente con la razionalità. Senta, ma lei crede alla congiura dei due spagnoli, l'accordo tra Lorenzo e Marquez? Allora, tutto quello che si dice fuori mi dispiace molto, mi dà molta tristezza, perché è un veleno mediatico eccetera. Però io penso che quando i piloti a Valencia abbasseranno la visiera e giocheranno a scacchi con il rischio e il pericolo alla morte, torneranno in quella mitologia per scalare le montagne incantate, quindi dove loro vogliono vincere, io credo che tutti cercheranno di vincere, faranno una gara favolosa, e Valentino la deve fare prima della corsa, deve essere lui, dove tutti devono pensare ce la fa o non ce la fa. Lorenzo diventa ininfluente. Senta, ma aveva senso punire solo Rossi a un certo punto? Se è andata così, forse andavano puniti tutti e due. Senta, no? Lo ammetto, non so se tutti ci crederanno, ho fatto l'arbitro di calcio perché volevo andare a vedere le partite. Normalmente in quelle condizioni avrei dato un giallo a chi provocava, perché la provocazione è un attenuante, ma non esime la colpa, e avrei dovuto dare un'altra punizione anche a chi aveva reagito. Però nel mondo delle corse questo può succedere, perché per noi che siamo seduti, che abbiamo logica, ragione, le vediamo tutte queste cose. Lì non c'è logica, non c'è ragione. Non c'è logica, non c'è ragione, c'è solo la lotta. In questo caso c'era la lotta di un ragazzino che voleva in un certo senso, come ha detto lei prima, o prendere il posto. Ammazzare fra virgolette. Sì, va bene, che voleva prendere il posto voleva prendere il trono, Senta cosa è capitato alle Iene quando sono andate in Spagna nel regno di Marquez. Per capire questa storia dobbiamo partire un po' da lontano. Ve la ricordate la gara dell'Australia? Sì, 3 settimane fa. Dopo il Gran Premio di Phillip Island, Rossi si è lamentato perché Marquez l'avrebbe ostacolato durante la gara. Ha detto così: il suo obiettivo forse non era solo quello di vincere la gara, ma anche di aiutare Jorge Lorenzo ad andare lontano e fare più punti alle mie spalle. Effettivamente, Loris Reggiani, un ex campione di motociclismo, ha controllato e analizzato tutta la telemetria della gara e ha scoperto che Marquez rallentava fino anche a più di un secondo al giro quando era davanti a Rossi e accelerava per passarlo subito quando era dietro. E con questo? Insomma, Marquez avrebbe fatto una minchiata. Ma non è finita qui. Domenica scorsa, la Sepang ha cominciato a provocare Rossi ripetutamente e Rossi ha rischiato di giocarsi il mondiale. Altra minchiata. Questo lo dite voi? No, lo dice Nieto, un ex pilota di motociclismo spagnolo. Insomma, tante incertezze anche nel mondo di Marquez. Come lo definirebbe lei Marquez, oltre Magic? Stavolta direi che Magic glielo sospendo un attimo. Per un attimo. Poi quest'altro anno tornerà a essere Magic, perché sicuramente l'esperienza di quest'anno, Magic gli temprerà l'anima. Ma quest'anno Magic è Valentino. Chi è più atleta dei due? Allora, nella mente in questo momento Valentino è un'armonia incredibile ed è una fantasia, diciamo così, quasi sorprendente della sua capacità di avere giovinezza. E quindi lui di più. Fisico direi dalla cintola in su, come usare una cosa di Dante, Marquez è formidabile perché diventa una cosa unica con la moto e quando guida, specialmente nella lotta, va in un luogo altro, in questo luogo altro faceva magie, allora lo chiamavo Magic, adesso non ha fatto magie, mettiamo fra parentesi Magic per togliere le parentesi al più presto. Spero già da Valentino. Già da Valencia, ecco, qui con noi abbiamo Giacomo Agostini, buongiorno, che lo ringrazio, 15 volte campione del mondo, Agostini. Ciao, allora, super campione. Ciao dottore. Senta Agostini, Lorenzo è andato a testimoniare, non richiesto a favore di Marquez, ma lei se l'aspettava? Compagno di squadra? Fa per dire. Ancora per poco. Compagno di squadra direi che è il tuo primo avversario, quindi. Quindi è normale andare a testimoniare. Questo gesto forse non lo doveva fare. Un gesto orrendo, diciamolo come in italiano, orrendo. Beh, insomma, orrendo, ha ritenuto questo, lo riteniamo, almeno io lo ritengo non giusto, perché aveva già avuto un regalo, nel senso che la punizione di Valentino ha portato un po' di vantaggio a Lorenzo. Certo, naturalmente. Quindi doveva star zitto e dire grazie. Dire grazie alla fortuna che l'aveva aiutato. Senta Agostini, ma adesso la guerra però è diventata una guerra tra Yamaha e Honda. La Yamaha mi sembra che difenda Valentino. È la fine del rapporto con Lorenzo? Ma allora, io non direi guerra, stiamo esagerando. Vabbè, tutti. Guerra, leggo stiamo i comunicati. Perché di questi fatti ne sono successi tantissimi nella storia, sia nel motociclismo, nell'automobilismo, nel calcio, ne succedono, certo, si mandano all'ospedale, quindi adesso non dovremmo esagerare. Però stiamo parlando della guerra tra Yamaha e Honda. Ma Yamaha, con la Yamaha mi sembra che ha vinto Rossi, insomma, Lorenzo se ne va, parliamoci chiaro. Ma penso di no, penso che resti anche Lorenzo? Perché non dovrebbe rimanere? Non lo so io, però l'Honda dice che la telemetria dimostra che Valentino ha dato un calcio a Marquez che ha bloccato il freno, ma il calcio gliel'ha dato oppure si è difeso secondo lei? Io penso che il calcio per buttarlo per terra non l'abbia fatto apposta, cioè nel senso non abbia voluto buttare per terra Marquez, assolutamente. Una reazione di difesa, la reazione sì, di difesa, una moto che gli stava frenando addosso e il freno infatti si è chiuso. Gli è andata male perché purtroppo Marquez è caduto, se Marquez non cadeva con il contatto della leva del freno anteriore, non cadeva, non succedeva niente e non staremmo a parlare di questo. Quindi. Ecco, ma però la Yamaha ha difeso Rossi. Beh, insomma, la Yamaha cosa deve fare? Al pilota, insomma, è come il padre che non difende il figlio, insomma. Sì, però l'ha difeso contro Lorenzo. Quindi, vabbè, insomma, lei crede che a 300 all'ora farsi gestacci come è capitato tra Marquez e Rossi è il segno di una rottura definitiva e insanabile? Oddio, certo, non si sono mai amati, anche se prima vedevamo dei sorrisi. Facevano finta, insomma. Come? Facevano finta? Ma sì, ma non ci si ama tra piloti, ma soprattutto tra compagni di squadra. Mm. Non si possono amare, non si sono mai amati, quindi non pensiamo che sia successa una cosa. È da 100 anni che è così, quindi non stiamo scoprendo l'acqua calda. Insomma. Senta, ma due piloti che adesso si odiano così possono diventare pericolosi in pista oppure faranno più attenzione? Ma no, ma non è che fanno più attenzione, ognuno fa la propria gara, quindi non c'è amore, non c'è amicizia, pazienza, ognuno corre, le squadre sono gestite da due, cioè la Yamaha ha due squadre, sono gestite da tecnici, c'è un gruppo per Valentino e un gruppo per Lorenzo e ognuno lavora per il proprio pilota, come hanno fatto fino ad oggi. Senta, ma dottor Costa, quella velocità, 300 all'ora, si riesce a ragionare o si va solo d'istinto? Allora, penso ne istinto no, perché quello l'hanno solo gli animali, noi abbiamo solo pulsione. Nelle gare di moto credo che la razionalità non esista. Non esiste, vero? Però i piloti quando corrono vanno in un luogo altro dove c'è tutto fuorché logica e ragione. Ecco, in quel luogo altro com'è la vita, Agostini? Beh, però direi che se non ragioni ti ammazzi subito. Ah sì, dire anche questo. Se non ragioni ti ammazzi subito. Quando dicono no, momento. È una ragione dell'oracolo di Delfi, che era una ragione profetica, cioè tu vedevi in maniera da vincere il mondiale senza farti male, ma questa fa parte non più della ragione dei giorni d'oggi, è una ragione antica dell'oracolo di Delfi di Apollo. Senti, Agostino, re della ragione. Agostino, la verità è forse che nessuno si aspettava in realtà che dopo 4 anni Valentino tornasse così competitivo per il titolo, è possibile? Insomma, l'avevano un po' archiviato. Beh sì, effettivamente è vero, ma nessuno ci avrebbe mai più creduto che facesse un grande campionato come lo sta facendo, e nemmeno i suoi, quelli più vicini a lui, quindi, credevano a questo. Ha fatto un grande campionato, ha usato la testa, ha corso veramente da grande campione. Magari non è il più veloce degli altri due ragazzini, però è quello che porta a casa tutte le domeniche dei punti, quindi non si è mai fermato. E perché non è più veloce? Perché ha più paura? Perché gli anni passano per tutti, altrimenti anch'io sarei. No, ma quando ma gli anni passano, cosa vuol dire? Cioè, rispetto alla velocità è la paura che entra? No, la paura non ci pensi, è solamente che cala tutto, cioè, si invecchia e cala tutto, calano i riflessi, pensi di più di prima quando hai 20 anni. Marquez è caduto al Mugello a 300 all'ora, si è rialzato, ha dato una spolverata alla tuta ed è ripartito a 300 all'ora. Certo, perché? Pazzesco. Perché a 20 anni, oltre. Sì. A 30 anni ci pensi di più, a 36 ancora di più, ma la vita certo. È così. Insomma. Ma è follia sperare che prima di Valencia vada in scena un incontro chiarificatore tra Valentino, Marquez e Lorenzo, una cosa romantica e basta? Ma io mi auguro questo, che domenica facciano una grande gara, vinca il migliore e dopo la gara che si incontrino e si diano una stretta di mano, anche se l'amicizia non può ritornare. No, non può ritornare. Certo. Non poi mi ha detto, mi ha spiegato che non c'è mai stata. Bravo. Ma almeno il rispetto che ci sia. Senta, ecco. Ma se al posto di Rossi ci fosse stato Agostini, lei cosa avrebbe fatto? Non lo so, forse avrei fatto anch'io quel gesto, però sapendo sbagliare. Al momento magari no, però di sbagliare, perché se lei continua a offendermi, mi porta all'estremo e le do un cazzotto, purtroppo il torto è mio. Sì, ma lei ha mai perso le staffe in gara? No? Beh, oddio, anche a me tante volte mi passavano, mi innervosivano, mi spingevano, volevano farsi vedere che passavano Agostini e mi frenavano, eccetera. Purtroppo contraccambiavo anch'io quando potevo, insomma. Senta, il meteo a Valencia prevede temporale in alcune zone, siamo solo giovedì, ma insomma queste sono le previsioni. La pioggia sarà determinante a Valencia, eh? Ma oddio, la pioggia è sempre un pericolo comunque per tutti. Certo, Valentino va molto bene con la pioggia. Valentino ha ancora il campionato del mondo aperto, lo può ancora vincere. Dipende. Se Lorenzo arriva primo o secondo, penso che per Valentino sia difficile. Se Lorenzo arriva terzo, Valentino per me lo può vincere. È campione del mondo. Se arriva sesto e Lorenzo sta dietro ai due spagnoli o arriva terzo, credo che allora sia campione del congiura, mondo. Allora non ce la congiura. Ma i primi due giri penso che Valentino da 24esimo sarà subito decimo o dodicesimo, perché naturalmente gli ultimi, cioè gli ultimi per lui, i primi dieci sono quelli meno veloci, sì, con la moto meno veloce, quindi li supera in un attimo, sono quelli davanti, poi che sarà dura. Poi dopo penso che a 10 giri dalla fine penso che sia già sesto, io penso, per studiare quello che dovrà fare, poi se piove sicuramente per lui le carte imprevedibili gli vanno bene. Lorenzo invece nella sua perfezione è grande, però quando cambiano un po' le carte ecco che è meno forte. Ecco, ma se non vince Valentino si ritira secondo lei? Secondo lei? No, assolutamente no, anzi vorrà dimostrare che lo può rivincere. È vero? No, non può fare una cosa del genere, perché se si ritirasse vuol dire che non accetta una realtà, è come l'anoressico che distrugge il suo corpo per non stare in contatto con il mondo, va bene, lo faccia perché non vuole la realtà del mondo, ma Valentino non ha solo la realtà del suo corpo, c'ha un corpo da pilota che non deve affatto distruggere, perché in quel corpo c'è un'armonia incredibile, c'è questa sorpresa di quest'anno e poi quasi un'eterna giovinezza che lui non può assolutamente disertare, e quindi, deve correre avanti, come ho detto, per cent'anni. Mario Secchi. Sì, buongiorno. Ho una domanda per Agostini. Che differenza c'è tra il circus della Formula 1 e quello della MotoGP? La differenza è che il nostro sport è ancora forse terra a terra, nel senso che soprattutto tecnicamente non c'è quella tecnologia che c'è nella Formula 1, dove mi sa che tra un po' i piloti non servono più, quasi non avranno più il pilota e guideranno la macchina da pit lane, dai cioè box. Diciamo che nella tecnologia delle moto si è più indietro. Beh, siamo ancora fortunatamente, perché fortunatamente più indietro. Ai miei tempi si guidava ancora col polso, oggi il polso viene sostituito dalla tecnologia, dall'elettronica, e quindi toglie un po' il pilota, però naturalmente i piloti di oggi che iniziano così, che iniziano imparando con l'elettronica, naturalmente a loro va bene. Pietrangelo? Sì, no. Mario, no, siccome io non è il mio campo da gioco, cosa vuol dire guidare col polso? Vuol dire che quando c'è il polso è la mano destra dove acceleri, quindi, e quindi è lì il cuore, è lì dove senti che la moto va via, diminuisci, cali, apri, chiudi. È il simbolo della velocità. È lì dove controlli tutto, capito? Pietrangelo? È il gas. Io vorrei fare il cane in chiesa essendo digiuno, però lo sport lo leggo sui per giornali. La metafora, per quello che rappresenta. Ci sono tre scene che mi hanno colpito. La prima è quella del gol di Maradona con la mano, è la mano di Dio, e quindi siamo in un campo teologico di puro genio, vale proprio perché è genio. L'altra scena, quella che personalmente mi ha esaltato, è stata quella di Zinedine Zidane che dà una testata a chi lo insulta, a chi gli dice, appunto, a chi lo provoca, e però giustamente ha torto, però ha meritato una ola. E poi c'è questa scena, questa che ha proposto appunto... La Malesia. Che cos'è? Sapete, ho un'impressione, mi è sembrato proprio l'Italia di oggi, cioè una specie di Luca Lotti del motociclismo, e cioè una scena che si poteva ben vivere in Parlamento, nel gioco della politica. E quindi, faccio il cane in chiesa. Mamma mia, che cagnaccio tremendo. Cioè, i cani in chiesa però vengono scacciati. Appunto. Quando gli va bene. Senta Agostini, ma questa rivalità per la follia dei protagonisti potrebbe creare danni nell'ultima gara? No, penso di no, perché se Valentino parte ultimo, Marquez... e Lorenzo non li vede neanche, ecco, non si vedono fortunatamente, si, ecco perché dico, vinca il migliore e alla fine si ritrovino e si diano una stretta di mano. Ecco, ma a 300 all'ora esistono solo nemici da battere o da abbattere? Beh no, sono nemici da battere. Sì. Senta dottor Costa, lei ci sarà a Valencia? No, non ci sono a Valencia perché mi sono ritirato. E quindi non va, soffre troppo. Si soffre troppo in pista senza essere più dottor Costa. E invece Agostini ci sarà, no? No, perché trasmetto a Sky Cielo, faccio un commento e quindi purtroppo vorrei esserci, ma purtroppo sono chiuso in una stanza. E allora deve fare una previsione adesso, come va a finire? Bah, è dura. Ma un campionato come questo che finisce a carte bollate non è tristissimo? Ma guarda, ho saputo ieri che ci sono 50.000 tifosi che vorrebbero comprare i biglietti e non ci sono neanche venduti 110 o 120. Quindi un affare gigantesco questa ultima. Quindi non so, quando dicono ma è per lo sport, se fosse sempre così per lo sport, non so, c'è il doppio di persone, dico 50.000, e poi addirittura ci sono i biglietti da 50 euro che adesso i bagagliini li vendono a 400 perché appunto non essendocene più e tanta gente vuole andare, quindi forse è un affare questo. Senta, grazie Agostino, un'ultimissima domanda al dottor Costa, ma si è pentita di aver scritto un libro solo su Magic Markets? Beh, intanto ho scritto anche tante cose su Valentino, poi come ho detto prima, adesso ho messo le parentesi sul Magic aspettando Valencia, perché io penso che Valencia, come ho detto prima, se Valentino riprende questa armonia incredibile della sua mente, questa sua, con la sua fantasia inventa questa giovinezza che è più bella e più viva di quella che aveva quando ha vinto 9 titoli mondiali e la trasmette al mondo. Io l'ho già detto, non mi interessa chi vince Valencia, chi è campione del mondo, lui è già il vincitore e sicuramente si merita questo applauso e di tutte queste persone che vedo che gli vogliono un mucchio di bene, perché sta facendo la leggenda dello sport del motociclismo. Grazie dottor Costa. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS è pubblicità. State ascoltando un programma offerto da IBL Banca. Migliora la vita di tutti i giorni. Mix 24. Dai, tifosi scatenati, pro contro Valentino, attesa di domenica, davvero davvero ci sono moti popolari per questa, è il dottor Costa che li strega un pochino tutti. Insomma, è una bella intervista, cioè Costa è un personaggio. Dicevo, non è il mio campo da gioco, seguo così da sportivo, da tifoso di Valentino Rossi. Ci occupiamo di tutto. Sì. Però è interessante, no? È un mondo completamente diverso da quello mio, diciamo. Io seguo di più il calcio. E quindi siamo tifosi di Zinedine Zidane. Tifoso del Cagliari, Gigi Riva, appunto. Io della Juve, siamo a posto. E allora andiamo con la canzone. Tranquillità, mentre di lì scopano al sole di mezzodì. Tirano sassi a un albero storto. Spargono polvere e ossa di morto. Vivono al confine di Shangri-La e prendono quello che Dio gli dà. Parlano poco, gli va bene così. Allora Pietrangelo. E allora Shangri-La. Io l'ultima volta che l'ho vista, la mitica città, era in un vecchio albo del Disney, di Walt Disney, ed era giusto in piazza Pio XI a Roma, proprio sulla strada che porta verso le campagne o chissà dove c'erano sciamani in cerca di vento e, come canta la canzone, c'era l'incudine del firmamento. Insomma, era il crepitare della pioggia, era quell'atmosfera propria di una ballata che accompagna le campagne, e la dedica arriva fa duopo, e cioè Pietro, che sarei io, la dedica questa canzone a Gloria, nel senso di un omaggio a Pietra Gloria, e quindi è una dedica privata. Accidenti, qua è nato un amore. Sta nascendo qualcosa e io non me ne sono accorto, come al solito. E guarda, oltre il vetro. Sicilia chiama Sicilia, perché alla funziona. Fine. Non solo, a gira chiama gira. Siamo proprio nel quartiere, nella via. Storia. Posso dire, sapete che anche ad Agira manca l'acqua da 2 giorni? Ah sì? Sì, in Sicilia non se ne si può. Si lamentano più. I parenti? Certo, perché ci sono il presidente della Repubblica siciliano, il presidente del Senato siciliano. Quindi provvedimenti. Il Viminale siciliano, tutti che brindano con l'acqua per ieri. Questo è una fortuna. E allora Mario, tu c'hai la tua bolla. No, io non la chiamo più cattiva, perché no, è sempre buona. Angelica. La tua bolla angelica. Fabi. Io vorrei parlare, guarda, anche con te Giovanni, di Calogero Mannino, che è stato assolto perché il fatto non sussiste. Dopo, ascoltiamolo. Veramente. Allora, onorevole Mannino, lei si considera una vittima? Sì, una vittima... Di chi? Una vittima innanzitutto del sistema giudiziario, che è tutto fondato su un potere assoluto dei pubblici ministeri. Senta, ma è stato un accanimento oppure un errore giudiziario? Sì, un errore giudiziario anche per effetto dell'accanimento. Insomma, Mannino, cioè, quando l'avevi fatta tu questa intervista? L'ho fatto anni fa, dopo la prima assoluzione. Allora, insomma, sono trascorsi la bellezza 25. Di 25 anni. Allora, io mi chiedo, primo, c'è un problema di, voglio dire, non velocità, ma lentezza dei processi, che è una cosa enorme. Il secondo problema a questo punto è che il castello d'accuse che aveva sostenuto tutto questo impianto, certo, insomma, va giù, va a carte 48, come suol dirsi. L'altra cosa che è interessante è che la sentenza giunge proprio quando si apre a Roma il processo di Mafia Capitale, sul quale si dice è mafia, sul quale io personalmente ed altri sostengono invece che mafia non è, certamente corruzione, criminalità, diciamo, eccetera. Però la mafia, il procuratore per me, capo di Roma è una persona seria. Sì, quindi, lo vedremo durante il processo. Vabbè. Cioè, però voglio dire, non è che arriveremo al paradosso che a Palermo la mafia non c'è più e invece ci sta a Roma. Non lo so, vedete un po' voi. Mi io sembra, penso che Pignatone sembra, sia un uomo che sta a distinguere. Ma pure io cose, penso che sia serio. E infatti nel processo vedremo. Però insomma, da giornalista qualche domandina me la faccio. Sì, anche delle altre fatene. Salamino. Mario, come si dice? Dream Team, si dice così. Dream Team. Dream Team. A Roma è tutto un Dream Team. Al tempo di Anna Maria Cancellieri, quando era commissario dello Stato del Comune di Bologna, fu così forte il tratto di governo della cosa pubblica da coincidere col punto minimo di visibilità. È risaputo che il prefetto Cancellieri, ancora dopo due mesi dal suo insediamento al Palazzo Comunale, doveva mostrare i documenti in portineria per farsi riconoscere. E non volle lei, da il prefetto Cancellieri, incontrare nessuno, nessuna pompa e nessuna magna. Tant'è vero che il ricordo di Cancellieri, commissario della città di Bologna, è ormai leggenda. È vero, una donna leggendaria. Ed è un'età aurea impossibile da replicare nell'epoca ai noi dei sindaci. Ora, secondo me... Ma posso pure star adesso, Come? I prefetti, poi posso pure star adesso, voglio dire. E appunto, visto, però... No? Vabbè, ogni categoria ha i suoi 15 momento. Minuti di gloria, no? Ora, secondo me, però... Scusate, secondo me, però... Sarà Stiamo esaurendo le categorie. No, secondo me sarà l'aria di Roma. Sarà l'acqua nelle tubature, perché questo Francesco Paolo Tronca, nominato... Di cui tutti parlano benissimo. Oltretutto pure lui siciliano, un altro fiore di Sicilia portato fuori... È stato nominato commissario dopo la defenestrazione di Ignazio Marino, e invece che la frusta, per usare un'immagine di Francesco Storace, sta usando... Che cosa sta usando? Tutto vanità, solo vanità, vivete con gioia e semplicità. Oh, si agita come se fosse stato voluto dal popolo di Roma, invece è stato solo nominato da Renzi. Allora, già si guarda intorno a delimitare il territorio insidiato da chi? Da Franco Gabrielli, che già fu badante di Marino, adesso impegnato nell'opificio del Giubileo. Allora, parte questo Dream Team, lui partecipa alle cerimonie, dichiara, dice, detta, il povero Papa manco il tempo di liberarsi di Marino, che se lo ritrova in un prodigio di agilità cerimoniale senza pari. Insomma, secondo me è l'aria di Roma. Pure al balcone si affacciò, quello sui fori imperiali. Vabbè, dai, tutti ne parlano bene, lasciamolo lavorare. Sembra Berlusconi. Mamma mia. E stavo dicendo, viva Cancellieri. Viva Cancellieri, d'accordo. Presentasse i documenti all'usciere. Ne faccio una sui magistrati ancora, se vuoi. Tra un attimo, dopo aver sentito Francesco da Roma. Però era un salamino buono questo. Ottimo. Francesco da Roma, compensava. Francesco. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo parlare della malfede di Marquez. Dica. Così, però facendo una domanda agli ospiti che sono andati via. Purtroppo. Avevano allora, il treno. Secondo me Marquez probabilmente avrebbe potuto continuare la corsa, perché la moto non era distrutta, secondo il mio parere. però ecco, era vabbè, una domanda questo, che volevo sì. fare. Vabbè, a quel questo, punto, secondo me, lui si è fermato come per dire, vedete, Rossi mi ha fatto vabbè, cadere. Quando sei caduto, dovuto... quando sei caduto a quel livello lì, insomma, continuare o non continuare, sempre ultimo arrivi, eh. Non questo è... però dimostra che sia Marquez è un bambino, ancora deve crescere, vabbè, diciamo, è giovane. Come uomo, ah. E soprattutto Lorenzo è un po' Maramaldo, insomma. Beh, Lorenzo... dopo che è stato vabbè, vabbè, Rossi, ok, d'accordo, anche... d'accordo. Un rossiano puro, d'accordo. Mario Bolla ancora. I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you. I'm a space invader. Questa è la fase spaziale di David Bowie, cioè dai. Pezzo dove dice I'm a space invader, no? Vabbè, insomma, in d'altronde abbiamo avuto il marziano a Roma, per cui. E no, voglio parlarvi di una cosa che sta passando così sotto traccia, non se ne trova appunto segno sui quotidiani, eccetera, sui TG, men che meno. Però la NATO sta preparando una, diciamo, un riallocamento di forze nel Mediterraneo. Se ne discuterà nei primi di dicembre. E questo a noi interessa molto da vicino, più di quanto si immagini, perché significa più forze navali, 5 Global Hawk, che sono sostanzialmente dei droni per il monitoraggio e l'intercettazione aria-terra, verranno, andranno in servizio in Sicilia, nelle basi americane. Sì, e allora? E allora mi chiedo, ma tutto questo nel dibattito pubblico italiano che tanto si era scapicollato sulla immigrazione, perché non è presente? Forse manca un po' di politica? Manca così. Un po' di politica? Un po' di politica forse estera. Sì. Canzoniera, politica estera manca, lo sappiamo. Canzoniere! Accarezza, mio amore, ma come il sole che tocca la dolce fronte della luna. Non venirmi a molestare anche tu con quelle sciocche ricerche sulla traccia del divino. Dio arriverà all'alba se io sarò tra le tue braccia. 800240024, numero verde, 349-238-6666, l'SMS pubblicità. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Mix 24. Mille speranze, mille vite, mille sogni, mille destini. Quando si incontrano fanno scintille, fuori dai riflettori si muove nuovi mille. Un solo sogno stretto dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. Anni, in alcuni casi decenni, a pagare il pizzo, fino a quando 36 tra imprenditori e commercianti hanno trovato il coraggio di denunciare il racket che li aveva vessati, spessissimo riducendoli in miseria. Quelle denunce hanno portato a 22 arresti nella bagheria di Dacia Maraini, la Baaria di Salvatores, una rivoluzione nel feudo di Bernardo Provenzano. Ma già 10 anni fa, era il 2004, a Palermo nasceva Addio Pizzo, un'associazione anti-racket creata da un gruppo di ragazzi che voleva veramente cambiare le cose. Addio Pizzo, che fa parte della rete di Italia che cambia, oggi conta centinaia di associati e volontari. Pico di Trapani è uno di loro. Ecco Pico, Addio Pizzo ha detto di non chiamare eroi i 36 imprenditori che hanno denunciato il racket. Perché? Perché noi aspiriamo a una collettività, a una cittadinanza che prende posizione contro il racket e lo fa in maniera normale, per riaffermare la propria dignità, la libertà di imprenditori e cittadini che vogliono liberarsi dalle vessazioni della mafia. In ogni caso, le denunce e gli arresti appaiono come un cambiamento storico. In che modo Addio Pizzo ha contribuito a questo cambiamento, secondo lei? Per quanto ci riguarda, abbiamo portato avanti negli anni un lavoro importante di sensibilizzazione col territorio di Bagheria, Ficarazzi, Villabate, ovvero il territorio su cui ricadono le operazioni delle forze dell'ordine e della magistratura, che hanno fatto una straordinaria azione di pulizia. Abbiamo invitato studenti, cittadini normali, sollecitato le istituzioni a fare ciascuno la propria parte a fianco di questi commercianti e imprenditori, per farli sentire sostenuti in questa loro importante scelta di rottura col passato. Ecco, ma come funziona concretamente Addio Pizzo? Per quanto riguarda il sostegno, il supporto fornito agli imprenditori nel momento più delicato, sono loro che devono fare un passaggio importante, quello della denuncia, forniamo loro assistenza umana, psicologica, legale, lungo tutto il processo, il percorso che porta alla denuncia, facendoli interloquire con le forze dell'ordine, con la magistratura e facendo sentire la vicinanza e l'appoggio della comunità in cui vivono. Senta, ma Dio Pizzo è diventato anche una forma di sostentamento? Con tutto quello che si è venuto a creare, un vasto movimento d'opinione di sostegno a favore di chi voleva denunciare, sono venute tante belle idee, fra cui appunto una in ambito turistico con una cooperativa giovanile ideata da alcuni di noi, Addio Pizzo Travel, che hanno messo a regime una delle principali potenzialità della nostra terra, della Sicilia, l'ambito turistico, e abbiamo, attraverso l'idea di Addio Pizzo Travel, organizziamo percorsi di conoscenza nei luoghi della storia del movimento antimafia, storia di resistenza, i cui consumi di questo viaggio vanno a sostenere praticamente materialmente gli imprenditori iscritti a Addio Pizzo. Per saperne di più sulle altre realtà della rete di Italia che Cambia, www.italiachecambia.org. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Quando a Firenze ancora i sindaci erano persone serie, Giorgio Lapira era capace non soltanto di portare qui con uno sguardo profetico i sindaci delle città capitali, perché lui riteneva che Firenze fosse capitale, ma Giorgio Lapira è stato un grande perché ha sempre pensato che l'ottimismo in politica non fosse soltanto la profezia di un mondo lontano, fosse la capacità di tenere insieme lo sguardo sul mondo con la cura del quotidiano. Per lui l'atto più rivoluzionario era fare la centrale del latte, che è ancora del comune di Firenze, perché portare un bicchiere di latte ai bambini nelle scuole nel dopoguerra era un grande investimento sul futuro. Sindaco Nardella, per 4 giorni a Firenze, premi Nobel per la pace, sindaci di tutto il mondo, perché? Perché io penso che il messaggio di Lapira oggi sia quanto mai attuale, e mette in luce i fallimenti di questi 60 anni e dunque l'emergenza di tornare su questo punto, il ruolo dei sindaci sui grandi temi della pace. Come diceva Lapira, il sindaco di Firenze deve promuovere la pace e cambiare le lampadine. Ecco, questa era la vocazione di Lapira, bene, ma il suo gesto quotidiano più recente, un gesto all'altezza di Lapira, qual è stato? Beh, è sicuramente difficile essere all'altezza di Lapira, ma il nostro impegno, ad esempio, sulla trasformazione urbanistica della città, che metta al centro la tutela del territorio e la sostenibilità, va nel senso del messaggio di Lapira: non consumare nuovo territorio, non prestare il fianco alla rendita, alla cultura della rendita. Giorgio Lapira, la fantasia al potere, la forza dell'utopia, l'audacia della fede, qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Intanto Fabio da Milano. Fabio, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, e allora? Alda Merini. Ah, giusto, ha vinto il nostro libro finalmente. L'applauso. Grazie. Facciamo un applauso. Troppo buoni. Cosa fa Milano di bello? Adesso sono raffreddatissimo. Questo lo sento, ma a parte il raffreddore? Mi occupo di scrivere per conto terzi. Cioè? Ghostwriter, eh? Più o meno, sì, esatto. Ah, ma in politica, in economia, in che cosa? Letteratura. In varie cose, un po' di politica sindacale, un po' di economia, e poi scrivo le mie cose, insomma. Ah, vabbè, sono va bene. Sempre stato appassionato. Va e bene, allora... con grandissimo piacere. Grazie, molto gentile. Mario, c'è ancora? No, adesso sentiamo il professor Roberto Bernabei, che come al solito commenta le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Journal of American Geriatric Society, ottobre 2015. L'agopuntura migliora il cammino nella malattia di Parkinson. Allora, professore, per il Parkinson c'è qualche speranza? Ma le racconto questo articolo del Journal of American Geriatric Society perché per la prima volta, almeno per quello che ne so io, viene provata una delle cosiddette medicine alternative, l'agopuntura, viene provata contro il Parkinson. Come lei sa, su queste medicine ci sono molti che sono ciecamente adepti, altri che sono invece assolutamente critici. Il problema è sempre lo stesso. Qualsiasi cosa va bene se testata in modo metodologicamente corretto. Allora che hanno fatto questi signori giapponesi? Hanno preso 27 parkinsoniani importanti. Sapete, il Parkinson è quella malattia per cui c'è una rigidità di tutto il corpo, c'è una amimia, nel senso che... Papa Wojtyla. Perfetto. Allora, di questo tipo di malato, la prima cosa che capita è che cammina male. Cammina a passettini, cammina in modo incerto, cade. E allora hanno visto in questi 27 malati cosa succedeva, misurandolo precisamente, inserendo i famosi aghi che vanno sotto per un centimetro dell'agopuntura. E hanno visto cosa succedeva rispetto alla velocità del cammino, la lunghezza del passo e la cadenza, il ritmo di questo passo dopo agopuntura. Signori, migliorava. E migliorava in modo significativo senza il cosiddetto effetto placebo. Migliorava, perché era quantificato e misurato. Allora, questo lo dico intanto perché qualcuno ne potrà trarre beneficio, ma perché è un esempio per tutti noi, per dire qualsiasi cosa voi facciate di diverso dalla medicina occidentale, comunque se dopo una misurazione precisa e corretta funziona, beh, allora riparliamone. Va bene, e quindi viva l'agopuntura. E per chiudere, voglio di più di Pino Daniele. Ieri ho visto il mare, oggi sono stanco, ma voglio di più di quello che vedi, voglio di più. Per farmi valere, vivrò così, cercando un senso anche per te.